2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è la puntata del 27 e 28 agosto, la nostra ultima, anzi penultima puntata della versione estiva di 2024. L'indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci, è 2024, quindi 2024 e radio24.it. Potete interagire anche attraverso Facebook o Twitter, ma con messaggi adeguati a Facebook e Twitter. Se mi chiedete qualcosa che prevede una risposta magari un po' lunga, magari Twitter non è proprio il posto giusto, mandate una bella email e via. Poi valutate anche qual è la vostra domanda. A volte qualcuno mi chiede una consulenza personalizzata, non è che non la voglio fare, che se ne arrivano 50 alla settimana è un po' un problema, è un po' complicato. Parliamo di illuminazione smart. Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale D-Day.it, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo non solo di lampade LED, ma quasi, comunque sempre più di lampade LED. Però facciamo un passo indietro di un paio di anni. Tre anni. Diciamo che la premessa è che le lampadine, la luce, è l'elettrodomestico largamente più diffuso nelle case degli italiani, come di tutto il mondo. Ogni casa di un cittadino italiano, mediamente, penso di poter dire una penetrazione del superiore al 99,9%, ne contiene molte. È un elettrodomestico apparentemente molto semplice, che per 100 anni non è cambiato nella sua sostanza. La lampadina incandescenza, tungsteno, occhio e croce, si è un po' evoluta, ma è rimasta pressoché stabile fino a qualche anno fa, fino a che per ovvi motivi di risparmio energetico, che condivido completamente, nel 2012 sono praticamente state bandite, sono fuori legge, quindi non possono più essere prodotte, e mentre con proroghe varie si è provveduto a lasciare comunque il permesso della vendita. Ce ne trovano ancora sul mercato? Pochissime, devo dire la verità, soprattutto quelle speciali, magari limitate, quelle a passo molto particolare che servono per applicazioni specifiche, quelle per illuminazione domestica direi ormai è difficile. Quindi cosa succede dopo questo? Cosa è successo? È successo che sono sparite queste lampadine anche troppo presto, cioè l'industria non era così pronta a rispondere a un cambiamento così repentino dopo 100 anni, un'industria che insomma si è presa i suoi tempi. Si era abituata. E la soluzione sono state le lampadine cosiddette a basso consumo, che hanno anche fatto molto rimpiangere il tungsteno, cioè le vecchie lampadine tradizionali, perché le prestazioni di queste lampadine a basso consumo sono molto lontane dalle prestazioni, almeno come qualità della luce, delle lampadine tradizionali. Poi è arrivato il LED, c'era già il LED, ma è arrivato in maniera un pochino più completa. Perché? Perché il problema del LED non era il componente LED per fare l'illuminazione, era che i LED venissero ingegnerizzati in lampadine che assomigliassero geometricamente, mi viene da dire, alle vecchie lampadine, cioè che avessero lo stesso passo, lo stesso aggancio per potersi inserire nei vecchi lampadari che restano vivi, sia che avessero dei faretti, sia che avessero le lampadine tradizionali, e che magari avessero anche una forma analoga, perché non scordiamoci che alcuni lampadari vivono con la lampada a vista e il bulbo classico della lampadina deve essere ovviamente riproposto anche con le nuove tecnologie. Ora ci siamo, le lampadine ci sono praticamente, LED praticamente per tutti i passi, per tutte le forme, e i vantaggi sono tantissimi. I vantaggi sono innanzitutto quello dell'accensione istantanea, quindi sono accesi subito, quello del consumo, consumano addirittura meno di quelle a basso consumo, quindi il LED, quindi bassissimo consumo tipo, diciamo, giusto per avere un'idea, diciamo che la parità di intensità luminosa, ma arriviamo a consumare un sesto rispetto al tungsteno. Quindi una lampadina da 60 watt viene sostituita con una lampadina da 10, certo, ecco. Anche se pensiamo a tutta la nazione, pensate, un sesto rispetto al 100%. È una quantità di energia elettrica immane. Io faccio questo esempio spesso. Basta pensare che un watt impegnato per un anno, quindi supponiamo di accendere una lampadina da 100 watt e di lasciarla stupidamente accesa giorno e notte per tutto un anno. Ecco, questa lampadina costerà in corrente elettrica a chi la tiene accesa per tutto l'anno 200 euro, circa 200 euro. Poi dipende dai contratti, dipende, ma diciamo solo di consumo. Non sto parlando della componente delle altre componenti delle bollette, delle accise, solo di consumo, quindi i kilowattora consumati. La famosa componente energia. Sì, i kilowattora consumati costeranno circa 200 euro. Quindi questo lascia pensare, se quella lampadina accesa, che è la somma delle lampadine accese di casa, per esempio, da 100 watt passa a 15 watt, io invece di spendere 200 euro ne spenderò 30. Un risparmio di 170 euro, è una cosa incredibile. Poi c'è la durata, le lampadine LED hanno una durata enorme, una lampadina tungsteno tradizionale ha una durata intorno al 1000-1500 ore, una lampadina LED ben ingegnerizzata, proprio per il discorso del riscaldamento che facevamo prima, ha una durata di 30.000-40.000 ore. Questo significa una durata quasi infinita. Probabilmente si cambierà la lampadina perché si sarà cambiato il lampadario molto prima, e perché tenendola accesa 3 ore al giorno stiamo parlando di durate di 20, 30, 40 anni. Una battuta che si fa è che questa lampadina LED che stai comprando forse è l'ultima lampadina della tua vita, perché a meno che tu non sia molto giovane. Molto giovane, perché comunque per i prossimi 40 anni probabilmente non ne comprerai. Sono affidabili? Sono affidabili se sono ben ingegnerizzate. Il LED ha un limite, che è quello di essere molto sensibile alle temperature, al suo riscaldamento. Ovviamente una lampadina tradizionale non lo è, surriscalda, anzi fa luce perché si surriscalda, sì. No? Invece il LED fa luce per altri motivi, ma se vive, come dire, in un ambiente eccessivamente caldo, si guasta. Quindi è importante che la lampadina sia ben progettata per dissipare il non tanto calore che il LED genera, ma comunque lo genera, e quindi deve essere accoppiata a un dissipatore di metallo, eccetera eccetera. Questo lo fanno i progettisti delle lampadine, cioè io la compro i bravi già fatta, progettisti okay. delle lampadine. E quindi quando vado a comprare una lampadina LED a cosa devo fare attenzione? Beh, come tutte le nuove tecnologie, il consiglio è quello di non fidarsi di prodotti senza marca, più economici. Il mercato cinese si è buttato sul LED a pesce proprio e quindi ci sono tantissime produzioni di lampadine LED che non sono complicate dal punto di vista tecnologico, quindi possono farle praticamente tutti. Purtroppo molte non hanno quei requisiti di affidabilità. Il LED è digitale, si accende o non si accende. Poi sulla qualità della luce anche qui potremmo parlarne, ma è chiaro che una lampadina che si accende sembra che funzioni, poi magari invece di 10.000, 20.000, 30.000 ore dura 1000 ore o magari degrada molto velocemente la sua qualità. Anche qui la durata del LED non è una durata perché dopo 30-40.000 ore si spegne. Il LED probabilmente, finché non si guasta un componente elettronico, non si spegnerà mai. Cioè si consuma. Ma degrada la sua qualità nel corso della vita, come qualsiasi fonte luminosa, e si considera il fine vita di una lampadina LED quando arriva al 70% della capacità luminosa iniziale. Quindi noi possiamo pensare che dopo 30.000 ore succeda questo. Probabilmente in una lampadina che non dissipa bene il calore LED, questo termine del 70% lo raggiungiamo molto prima, quindi la qualità e la quantità della luce degrada molto più velocemente. Sì. A proposito di qualità della luce e di intensità della luce, che cosa, però penso che la cosa più importante sia, soprattutto a livello domestico, il tipico calore che ci dava la lampadina a incandescenza. Sì, la lampadina a incandescenza o quelle alogene, innanzitutto hanno una qualità della luce generalmente molto, molto buona, molto confortevole, è uno spettro ben distribuito, diciamo così. Poi probabilmente ci siamo anche abituati a quel tipo di luce. Ci siamo abituati a quel tipo di luce, infatti siamo abituati a questa luce che è tendenzialmente più calda. Se noi facciamo una fotografia, come capita delle volte, in luce mista, per esempio un po' di luce che arriva dalla finestra e un po' di luce che arriva da un lampadario, noi vedremo che la parte del volto del soggetto che stiamo fotografando, che è rivolta verso il lampadario, sarà più gialla, mentre quella rivolta verso la finestra sarà più blu. perché proprio è questa tinta un po' più calda, no? Le luci sono le luci elettriche tradizionalmente più sono calde rispetto a quella del sole. Sì, ha questa sensazione di più giallo, sì, più rosso, sì, sì. Più, che normalmente viene associato a all'aggettivo più caldo. Sì. No? Nel caso dei LED, i primissimi LED erano molto freddi, una luce molto blu. Ed erano disponibili fondamentalmente in una tinta sola, perché proprio deve cambiare il componente chimico che c'è dentro il LED per far cambiare la tinta della luce emessa. Tant'è vero che adesso esistono lampadine che sono in grado LED di erogare una luce molto più confortevole, addirittura di regolare il punto a temperatura di calore. Temperatura di colore, grazie all'utilizzo combinato di due micro LED, uno più freddo e uno più caldo, oppure usando un LED un pochino più caldo. In questo modo si ottiene una luce, attualmente nelle migliori lampadine, anche qui per questo è meglio in questa fase almeno di mercato, poi fra 5 anni ne parliamo, ma scegliere delle lampadine di marca, una qualità della luce molto bella, direi oramai praticamente simile. Gianfranco, quali parametri, ci sono due parametri fondamentalmente, quali parametri utilizzare per la scelta? Un parametro è più qualitativo, si trova scritto sulle confezioni delle lampadine se è warm, cioè tiepida, cioè una temperatura di calore un po' più calda, se è un cool, quindi se è un po' più fredda, se è un bianco freddo, bianco caldo, se è un intermedio, eccetera, eccetera. Questa è una misurazione qualitativa che va bene per l'utente, magari un po' a spanne, ecco, okay. Perché poi ogni produttore può avere la sua concezione di cosa vuol dire warm e cosa vuol dire cool. Invece, il modo corretto è quello di utilizzare questa, appunto, la temperatura di colore che dicevamo, che si misura in gradi Kelvin. Ed è un valore che c'è su ogni confezione di lampadina, ed è un valore che può andare mediamente dai 2000, 2004 ai 5000, 5500 gradi Kelvin. Attenzione, 2000 qui, cosa vuol dire? Allora, 2000 è una bassa temperatura di gradi Kelvin che corrisponde a un tono caldo. È un po' controintuitivo, perché termometro siamo abituati che tanti gradi è più caldo e pochi gradi è più freddo. Qui è perfettamente il contrario, cioè pochi gradi, meno gradi Kelvin, è una temperatura più calda, più rossa, più gialla. Più giallo, ok, perfetto. Invece 5000 è molto bianca, molto blu. 5000 è blu, 3500 è, occhio e croce, una luce neutra, bilanciata. Questo è importante. È importantissimo, perché non c'è niente di peggio per quanto riguarda il comfort luminoso in casa. Non che avere una luce più fredda o più calda, che potrebbe comunque essere accettabile entro certi range. Uno si abitua, l'occhio si abitua. L'occhio c'è un bilanciamento del bianco automatico che è meraviglioso. Non c'è niente di peggio che? Di peggio che avere luce mista. Quindi luce non accordate tra di loro. Cioè passare dalla cucina alla... Ma oppure anche nello stesso ambiente. Posso avere lampada sul tavolo che mi fa una luce molto calda e una luce diffusa che dal lampadario molto fredda. Cioè, quindi, se capisco, se io compro la prima lampadina e già lì dovrei pensare a quello che compro, che ne so. Beh, il consiglio sui 3000, è quello di andare appunto sui 3000, un po' più caldo piuttosto che freddo. Comunque, se mi compro una lampadina 3000 sarebbe giusto poi continuare a comprare delle lampadine che sono sui 3000 gradi Kelvin. Assolutamente sì, perché se no comunque quando io entro nell'ambiente e vedo le due lampadine mi accorgo che c'è una differenza. Una delle due è sicuramente sbagliata. Non è che ci si pensa tanto a questo. Assolutamente no. C'è un modo per accordare lampadine? Mi rendo conto che, ma questo lo diciamo spesso, il mondo sta diventando sempre più complicato. Sì. Ci sono più possibilità, perché poi parleremo di possibilità straordinarie, però se io ho due lampadine con gradi Kelvin diversi, quindi una un po' più gialla e una un po' più blu, c'è un escamotage per sincronizzarle, per accordarle? Allora, qui entriamo nel mondo delle lampadine smart. Cioè lampadine che, pur essendo LED generalmente, quindi come quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, hanno anche la possibilità di essere controllate tramite lo smartphone, tramite un tablet, comunque tramite un'app. Esistono delle lampadine in questo senso che integrano, come dicevamo prima, due LED, uno molto caldo e uno molto freddo. In questo modo, bilanciando l'intensità di questi due LED, queste lampadine sono in grado di emettere un flusso luminoso che va dal molto freddo del solo LED freddo acceso al molto caldo del solo LED caldo acceso, con tutte le gamme intermedie ovviamente. Questo significa che tramite l'app io posso portare a casa questa lampadina, inserirla nella mia lampada e dopodiché centrare con l'app il punto, la temperatura di colore che desidero, e a quel punto lasciarla sempre così. È un utilizzo smart, diciamo un pochino più limitato di altri utilizzi smart che vedremo, ma è anche un pochino più costoso, perché queste lampade ovviamente sono anche controllabili. In grosso modo quanto possono costare? Cioè, se una lampadina può costare 10, 15, in quell'ordine? Possono costare 5 volte il valore di una lampadina LED tradizionale, una buona lampadina LED normale. Sì. Queste lampadine smart, come si collegano con lo smartphone? Si collegano in Wi-Fi, con altre tecnologie? Normalmente esiste un bridge, quindi uno scatolino che va attaccato a internet, perché poi queste luci sono anche accessibili via internet, vediamo perché. Ma comunque si collega alla rete di casa e quindi alla Wi-Fi di casa, in modo tale che lo smartphone che è collegato alla Wi-Fi possa dialogare con questo scatolino. Questo scatolino si incarica di trasformare il segnale che arriva da Wi-Fi, i comandi che arrivano da Wi-Fi, in un segnale nello standard radio che queste lampadine utilizzano, che è uno standard normalmente mesh. Adesso non voglio andare troppo nel tecnico, ma fondamentalmente la rete si propaga di lampadina in lampadina. Questo fa sì che la copertura della casa sia assolutamente sicura, anche se uno ha tante lampadine e anche distanti fra loro. L'importante è che ci sia, come dire, un percorso per cui tutte queste lampadine sono collegate, e funzionano molto bene. È un sistema molto solido, molto affidabile. È facile? Cioè, io compro tutto il sistema, vado a casa e lo monto, o devo chiamare un esperto? No, assolutamente chiunque può farlo, può montare queste lampadine smart, quindi controllabili via smartphone. Qualcuno si sta sicuramente chiedendo: ma che vantaggio avrei a comandare una lampadina da smartphone? Uno l'abbiamo detto, cioè io posso sincronizzare tutte le lampadine, farle tutte lo stesso colore, cambiare anche tutte insieme. Però, ecco, ma effettivamente uno dice fin qua. Vabbè. Diciamo che non c'è niente di più rapido che accendere una lampadina dall'interruttore di casa. Quindi non è questo lo scopo. Sì, perché dovrebbe prendere lo smartphone, andare a prendere l'applicazione. Parliamo per esempio di lampade che stanno non magari nel lampadario centrale di casa, ma nella lampada che sta sul tavolino, nell'abat-jour, nella lampada più d'arredamento. In questo caso la lampada può essere lasciata, elettricamente parlando, sempre accesa, ma l'accensione può essere gestita da smartphone, che vuol dire gestirla anche dal divano, gestirla senza doversi alzare, né più né meno come avere un telecomando. Anche da remoto, che sei collegato via anche internet, da remoto, in spiaggia, che ha un luci. Vantaggio, dice, perché uno dovrebbe accendere mai le luci a casa? Beh, innanzitutto possono anche essere programmate, volendo, alcune, e l'accensione da remoto ha un paio di significati. Per esempio, supponiamo che io abbia una videocamera di sorveglianza in casa per vedere che tutto vada bene, però sappiamo che anche se ci sono le videocamere a infrarossi, la portata agli infrarossi è comunque limitata. L'emettitore infrarossi tira qualche metro, magari io voglio vedere più a lungo. Io potrei voler accendere la luce per vedere da remoto con la mia videocamera di sorveglianza l'interno dell'appartamento, che tutto sia in ordine, per esempio. Oppure voglio accendere e spegnere da remoto per simulare una presenza in casa. È ancora oggi considerato il miglior deterrente rispetto ai furti in appartamento. Si possono fare anche delle routine automatiche che accendono e spengono durante la giornata, durante la notte magari. Assolutamente sì. Quindi ci sono questi modi. Poi c'è un altro ambito, che forse è quello più utilizzato per l'utilizzo delle lampade smart, che è quello di avere non soltanto una luce bianca, ma avere una luce colorata. Esatto. La luce colorata si crea con tre LED, uno rosso, uno verde e uno blu. né più né meno come accade sui display televisivi, dove noi vediamo le immagini in tutti i colori, ma in realtà forse non tutti sanno, forse molti sanno, che queste immagini sono composte da piccoli pixel, subpixel tecnicamente si chiamano, verdi, rosso e blu. Componendo il verde, rosso e blu si compongono praticamente tutti i colori. In questo modo, proprio allo stesso modo, le lampade LED RGB, cosiddette red, green, blu, no? Sono in grado di garantire una luce colorata, quindi non più bianco caldo, bianco freddo, ma rosso, verde, blu, viola, arancione, tutto quello che vogliamo. E ovviamente possono farlo in maniera scoordinata, quindi io voglio fare delle luci colorate tipo Arlecchino, cioè non tra tipo Arlecchino, oppure in maniera assolutamente coordinata, proprio come dicevamo prima per la temperatura di colore. Questo permette di creare delle situazioni di arredamento molto sofisticato. Esistono lampade RGB che vanno dentro apparecchi di illuminazione tradizionali, esistono degli apparecchi di illuminazione veri e propri già integrati con queste funzioni, esistono delle strip LED, quindi dei nastri LED che possono essere applicati per esempio nelle gusce degli arredamenti, sotto i mobili dove c'è la zoccolatura, eccetera, eccetera, per fare un effetto di arredamento. Bello. E proprio di effetti di arredamento si parla, perché il difetto, il limite che hanno le lampade RGB LED è quello di avere un'emissione luminosa decisamente più bassa rispetto alle lampade bianche. Quindi questo comporta il fatto che non sia una lampada, delle lampade RGB messe in casa considerabili sostitutive di un'illuminazione normale, ma aggiuntive per creare degli accenti colorati di arredamento o cambiare l'atmosfera. È chiaro che io posso avere una bella atmosfera sulle mie pareti. Normalmente queste lampade vengono usate proprio in riflessione sulle pareti, poi per colorare le pareti, per colorare il pavimento, un marcapasso, qualche cosa di questo tipo, creare un ambiente per esempio tutto blu, serale, cioè, molto rilassante, in base anche a quello che succede in casa. Oppure sì, posso avere un party, una festa, eccetera, eccetera, crearla magari sui colori rossi, sui colori verdi, quindi su altri colori. Senti, tutti i produttori ormai fanno queste lampade smart? No. Non tutti i produttori, ce ne sono, però hanno cominciato ad esserci tanti. Il più diciamo celebre utilizzato, quello che è iniziato per prima, è che ha anche lasciato libere le proprie librerie, quindi ha dato open source le proprie librerie, quindi ci sono anche un sacco di applicazioni che le gestiscono, sono quelle di Philips Hue, quindi sì. HUE, che è proprio una gamma, una linea di prodotti smart che hanno la propria app. Ma poi c'è, dicevo, una quantità enorme di app di terze parti che è molto interessante. Per esempio, faccio un caso di app di terze parti. Un'app che rileva col microfono dello smartphone il rumore ambientale, idealmente la musica che c'è in ambiente, e fa il vecchio effetto delle luci psichedeliche degli anni 70. Cioè utilizza il sistema di luci Hue, che può essere di luci bianche o di luci colorate, per creare degli effetti luminosi perfettamente a ritmo col rumore che senti. Sì, quindi, ma ce ne sono tantissime di app. Ma veramente incredibile. Sì. Dunque, per questa puntata dobbiamo terminare, Gianfranco. Ricordiamo che qualche mese fa abbiamo proposto ai nostri ascoltatori una lunga chiacchierata che trovate in versione integrale sul nostro sito internet www.radio24.it. Se volete ascoltare la versione integrale di questa chiacchierata sulle lampadine LED. Gianfranco, a presto, grazie. Grazie mille. Chiudiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.